Beh, l'unica cosa che gli mancava era lo stereo che gli avevano tolto, e poi tutto il resto era tutto perfetto dentro, lucida lucida fuori. Poi cipolle, e me lo sono tutto sbaffato. sviluppi. Ci vuole una lua un po' e mezzo a San Napoli, va. Faceva tornare perfetta, però dopo qualche anno la macchina non si riavvia. Quella. E lui ha detto che non le voleva manco fare, perché lui c'era questa concessionaria, gli faceva il ritocchi alle macchine, ecco. E le macchine tutte bucate così le faceva rattoppare così, mettere un pezzo di fuori il giornale dentro, per tappare, non per tenere la stuccatura. E poi ci metteva lo stucco su qua già uno. Dovrebbe andare qua però. Sì. Si arrestano. E si arresta. Come è qua? Non sto facendo niente di cosa. Sono ingannando chi la compra e basta, ma non è che stai facendo. Non c'è nessun articolo di legge che dice di non, che non puoi stuccare le macchine in quella maniera. Beh, è possibile, ma che ti arresti? Se mi ricordo la vicina, la figata mi sembra c'è una piccolissima parte. Io sai quanto ce ne sono che lo fa. Però fa la carrozzeria più piano. Thank you. bastardi, vabbè. Ciao. Cosa è successo a quel macchinario là che ti ho detto che si è rotto? Il fulmine ha bruciato la scheda, sta andando via, va. Non sento, no? Non mi pare, vedi? Non ha silenzio, devi fare tutto in fretta per arrivare a prendere questa macchina, perché già il lavoro è un bello, poi quando devi pulirlo è un casino, devi fare tutto in fretta, se no non ce la fai in orario. Legale, caricando tutto. Ah, vero. Allora, conseguì più migliaia. E così andiamo. E così. Magari volevano fare prima, non c'erano mezzi e hanno caricato così. Bastava telefonare in comune e dirgli: una macchina con questa targa ha caricato tutti questi cassonetti insieme. E guarda, sarebbe fatto da denunciare il tutto, Ma comunque, io non faccio gridare di piatti. Adesso ultimamente sto vedendo che mi stanno mantenendo tutte le regole. Però gli avevano anche trovati, Dunque, tu, è un casino perché ti fanno fare la discarica a casa prima per dividere la roba e dopo tirarla per un tempo e allora non va più bene nemmeno dividerla a casa. Allora rompiamo la roba per un tempo e come si mangia prima e basta. Sono bravo per il stavolta non ho agito adesso, mi... mamma, sono proprio rilassato. Non mi sento la mano di me. Non mi avrà passato lo drappano, no? Cazzo, non ti preoccupare, tanto ci brucia il baracchino. Ma vuoi fare nervosia? Io sono 5. 5 sopra tu. Tu dato vai? 5 sopra. E via. Vedi, ma su, vai. Ma su 41, guarda un manco di indindilla che ce l'hai. Non sei? Ma so, sono su 41. Che è 35 e sotto? Sì, vabbè, io so qua, ma cavamo di là mezzo me, ma tanto no, non mi stava dando, cioè io ti sentivo a te, quindi non c'erano problemi. E vabbè, ma non manco la mattina perché se non muore in rega, ma si gioca con la macchina per la birra. Dove piglia gusto per figlia, ma io avrei voluto che si bruciasse. Oh, cosa stavo dicendo? Mica ignorare, dove sarò di nuda e far finta che non lo senti nemmeno. Manco cagando guardato. E tu era gre, ma manco balzato non passava. Ma... stavo facendo anche apposta, io lo stavo facendo. Cavaliera. E comunque qua vedo rompere le scarpe, deve essere sgocciolia questi cavalli. Ah, si è aggiunto già. Meglio l'ampulla di rubino che chi c'ha gosso. Ah, ah, ah. Un passo, un baracchino, o anche la furata, no? Dov'è? Sono inzaccato. E dove non se l'avrà mai pigliato, chissà, che preferisce pigliarsi altre cose che pigliarsi chissà. Sì. Ma no. Vabbè, dai. Si dà bene le luci. Giuseppe, non sono sentito. Giuseppe l'ho sentito stasera, detto che sarebbe rientrato, per non l'ho sentito. Praticamente era rarato, magari c'erano qualche viaggio lungo. Sì, era sempre un viaggio di nuovo, e poi l'aveva fatto neanche. Che cara. La programma. Loro ce l'aveva ieri, oggi ce l'aveva un altro viaggio. Ieri ce l'aveva loro. Ho comprato stasera e mio cuore lo sa cosa voglio da te. Siamo qua. Signori, signori, quando c'è fra per qua metto le cuffie, spero un attimino perché si lo sente dunque. Devo parlare a voce bassa? No, se parli a voce alta ti metto le cuffie perché sento un bel. Thank you. sussidio. Niente, mai, ci provo un po' e poi riprovo, capa. necrologia. Fatto credere di essersi laureato, ha fatto la festa di laurea, tutti gli hanno fatto il regalo e lui all'università non c'era mai andata. Cazzo, bella cosa. Questo qua era ballista vero, Lui chiamava le mitraglie, che gli parava una da brillare. Sapete che ha detto che una volta e caggio di un vespa fa zero voce, dove la cosa già ho, un tesoro. Stavolta dice che ha pigliato un nido con delle uova di uccello, no? E ne ha messo dove si mettono gli attrezzi della vespa, con la scatoletta di plastica. Un nido pure dimenticato, la dice ci, altre la linea di ripintore da Lucano di Piero Montone. Gliela raccolta un po', un'altra volta di questa meteorite che l'ha vista correre, che l'ha vista cadendo, si è messa a correre. Cazzo, la giubiliata, 7 milioni a un collezionista lo vende. Quello che ha un cattolore, un pauraggio. Chi si dice che è un cattolore, con le pezze di un cattolore, no, va. Ma cazzo, no. Va dal coso di quella signora che va fa cosa comprarsi un completino intimo, e dice: quanto vengono queste mutandine? 8 euro. E il reggiseno? Il reggiseno costa 10, quanto costa? Beh, vabbè, mi dia 10 euro per le mutandine e 8 euro per il reggiseno. Dice: lei è furbo, mi abbassa le mutande e mette il reggiseno. Siamo a Mario Lucia che li sparava ora da quelli là, tanto come te la mitragliatrice. A raffica le sparava, a raffica. Oh, già ti va di arrivi poco. Sicura morte cagliuta, ha fatto un fosso, dopo l'aveva già, già un tesoro. C'era crepare la risata e poi non se ne rendeva conto che era ridicolo, capito? Lui la raccontava perché vedeva la gente ridere, pensava di essere simpatico, ma non vedeva niente in giro, quando se ne andava, accanto a me che fa il farrone a me. Non mi sa che tu andava Guido di Centino, Guido che andava a Maurizio Costanzo. Ah, Guido di Rubò e poi ha beccato un po' il professor di Cantichini, ha serrato 30 frizzle. L'ha lasciato tutta la notte, da poi dici giù fuori, non so cosa, perché un frigorifero, dici giù fuori, non so cosa ha combinato. Già mi diceva poco, quello lì. Una volta che ha detto che è andato in Russia a farsi un viaggio, è venuta a voler fare la pipì, mi mette a fare la pipì, scatta a me, mi guardo. E si era congelata la pipì scendendo, lì sta la latte che era uscita. Era freddo, che freddo. Non pare che era piccalori, cosa era? Piccalori. Piccalori di fava. Cavanna. Ciao autore, ben sentito, con la mia ritta anche a te. Sono in compagnia di Antonio Bombolo e di Vera Uno. Avanti, Tore. Falchetta c'ha problemi. Mi stava dicendo che lo Smitter non va più come andava a Santiago 9 quando modula, ma la lancetta va appena sul 2, mi pare sul 3, dovrebbe avere un po' di stazionari. Pier Paolo, lo senti amico Ditti? No, è attimo, non lo sento. E tu, Antu? Negativo. No, solo io ti sento. Sì, ma pure tu, Santiago 3, per essere con un amante, ma sei basso e dai. Che hai di arrivo 9-5, mi arrivano 9, 9-5. Non è strano, forse in una zona brutta. Passo io ho detto, l'ho venduto a poco. Era nuovo, nuovo, nuovo, non c'era un grafico. Salerta Master Plus. Questo maltempo, guarda, di merda, guarda, dice che domani mi sono acqua di nuovo. Sure. Ricci, cordialmente, Falchetto, a te e tutti gli amici che sono in ascolto, e non avrò tutta la mano. Faccio un po' di ascolto per il passaggino finale e poi vado via. Buonanotte, buon 144, già, quando lo fai? Buon tutta la parte a Tullio. Buonanotte Gianni, dai, ce la risentiamo, gappa. Senza altrimenti del scadoppo abbia schiacciato un po' il filo, ecco, tutto qua. Por eso. picchi negativi quando stai modulando. Lo so, è un casino, guarda. No, non è questione di apparato, è questione che la colpa è loro. Loro se devono controllare le antenne, che queste non fanno TVI, non esiste con le code adesso che faccio TVI, è impossibilissimo. Allora ha problemi lui. Non vanno bene queste cose, non vanno bene perché chi paga una concessione ovvio è addirittura anche di modulare, cosa vuol dire questo? Se fa TVI non è la tua la colpa, invece è loro. È proprio gente ignorante, quando parlano così è gente ignorante, sì. E infatti. L'ignoranza, fa brutti scherzi di ignoranza purtroppo. Infatti. Però io è un casino, lo so. Alla bufera se la alzi e la buona antenna lo stesso, Il segnale c'hai, ti posso dare uno e mezzo, non di più. È ovvio, la radio si abbassa di più. Sì, è abbastanza complessivo, ma sei basso, ti posso dare due di radio, non di più. No, la bufera devi piazzare in alto, capito, per acquistare più segnale, capito? Infatti. Dispiace perché la bufera è una buona antenna, Sembra tantissimi anni fa l'ho avuto anch'io e sparava bene la bufera. Ripeto, l'altezza conta, capito? Se no ti fa ritorno anche. Cappa. Cosa vuoi fare adesso, Otto? Mamma mia, che fastidio, guarda. No. Non è l'apparato che disturbano. Il problema è quello di loro, capito? Quelli dei code non disturba mai, non le fa di fuori, capito? Non le fa col decoder, non le deve fare assolutamente. Meno che non le avevano fatto l'impianto a cavolo di cane. Infatti. Se diventa che ha problemi di antenna lui. Ma scusa, ti dovresti lamentare prima tu, perché se l'antenna dell'apparato ce l'hai vicino all'antenna TV e non ti fa TVI, non vedo motivo perché debba farlo agli altri, non ho capito io. Ma non è che magari lo faccia apposta e quando tu moduli lui magari ti sente, non lo so, perché tante volte il vicino, ma siete vicino proprio attaccati all'appartamento. Allora, quello ti sente modulare, capito, e rompe il coglione per quello. Infatti tu sei il casatore puoi fare il cacchio che vuoi tu, non ho capito se mi deve reso conto a lui, non ho capito. No, ma allora adesso ho capito, no, non è questione antenna. No, è questione che lui ti sente modulare, perché mi è successo a me e a quella di sopra, che abita di sopra a me. La mattina mi ha detto, tu con questo baracchino, break, non ho capito, io in casa mia posso fare i cazzi che voglio, signora mia. Lui in casa sua può fare i cazzi che vuole, nessuno va a rompere le palle. Esatto. Ci sono sempre le persone che rompono i coglioni, però a me non me ne frega un cazzo, io sono in casa mia. Pago i miei diritti per modulare e modulo quanto mi pare mi piace, alle 4, alle 3, alle 5, allora che mi piace, se non devo dare reso conto a nessuno. E infatti, ci devo andare una volta per sé per tutti gli ascolti, ma no, nulla ti devo, no, e allora io in casa mia faccio il cazzo che voglio io, va bene, se li sta bene così, se non li sta bene, faccio il cazzo che vuole fare. E infatti quello che dico io, se ti danno un consiglio, perché non lo devi accettare? Non ho capito come sta il motivo. Cioè, se tu mi dai un consiglio, se ne vedete, mi stai un consiglio buono, non un consiglio cattivo. Caspita, poi se non lo accetta, allora è proprio ignorante di tutto. Allora devi assecondarlo, fregartene, se devi modulare moduli, e te devi fregare di tutto. E quello è detto che te lo prescato, che tu devo spendere un sacco di soldi per gli apparati e poi al gusto di modulare per sentire come escono le radio, gatta e chissà niente, gatta si mette lì in mezzo a rompere le palle, ma non va bene, non va bene assolutamente. E come ti sto dicendo io, lui ti sente modulare, lui dà fastidio il fattore che tu moduli, capito, magari lui ti sente all'appartamento, si sente attaccati, è ovvio che dopo ti rompe le palle, capito? Infatti, non ho capito, bisogna farsi rispettare con certi elementi, quando uno è tonto e non ci arriva da sé vuol dire che bisogna reagire diversamente. Ho capito, tu puoi fare tutto quello che vuoi, non ho capito se mi dà reso conto a lui, non ho capito. Se non mi piace ascoltare che si siete, basta si mette un tappo negli orecchi e via, cosa vuoi ti dica? Ma io dovevo fare il chiamo, che fanno sta? Ah, sai cosa può fare? Della sera di vicino, scherzando sta, davvero. Si mi avvicina, io non si vuole neanche permettere di toccare nulla, ma stiamo scherzando. E tu l'hai, anzi, l'hai voluto anche troppo bene, se no mi si beccava una bella denuncia, ma stai scherzando. Vai tranquillo. Muore tu sì. Deve essere uscendo tanto bene, bene, bene. Come? E appena appena sì. Gappa, gappa. Io come ci arrivo lì? Gappa, gappa. Prova ad andare sull'1, che siamo sul 45, a vedere se ti sento meglio.